Incontri di Gianfranco Fabi. Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena, non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più. A quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Con la voce, con le note, con le parole di Fabrizio De André, le parole di Georges Brassens, una canzone tradotta da Fabrizio De André, come a tante altre di Georges Brassens, Le Passanti. Iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera ad Alfieri Voltan. Buonasera. Le Passanti, questa canzone molto, molto tenera, molto, molto affabile di Fabrizio De André, come mai l'hai scelta, come mai le piace? Perché l'ho sentita poco tempo fa, io la conoscevo già, ritengo che sia una delle più belle canzoni di De André. Ho scelto un autore italiano e anche credo che sia, anche se non molto nota, molto, molto poetica. Certo, è una poesia che inneggia l'amore, ma, una poesia contro la guerra, una poesia perché, che è sempre attuale. Sì, credo che esprima due cose. Da una parte è una canzone d'amore e io credo che ogni imprenditore per la propria azienda provi amore. E questa è una delle cose che spesso non viene notato, ma c'è. E l'altra perché sottolinea più le cose che si devono fare che quelle già fatte. E credo che questo sia un dato caratteristico del mio carattere, proiettato al futuro, all'innovazione e a guardare quello che manca piuttosto che quello che già c'è. Ecco, parlando della canzone di Andrea, Alfieri Voltan ha già presentato un po' se stesso. Un imprenditore che guarda il futuro, un imprenditore impegnato nell'innovazione, è stato fondatore ed è presidente di SIAV, che è una società di Padova. Avrete anche capito che viene un po' da Padova, da qualche inflessione, non certo dialettale, però come simpaticamente usano tra i vieti, Alfieri Voltan, appunto presidente di SIAV, che ha fondato 25 anni fa, perché è venuto in mente di fondare un'azienda che si occupa di informatica. Perché provenivo per ragioni di lavoro da questo settore, ma perché uno dei miei pallini era sempre stato quello di mettermi in proprio, di fare qualche cosa che fosse più creativo del fare un lavoro dipendente. E credo questo sia un tratto caratteristico mio come imprenditore, ma di tutti gli imprenditori che hanno sicuramente sempre una grande spinta alla creatività e all'intraprendenza, diciamo. Ecco, in 25 anni questa startup di 25 anni fa è diventata una media azienda, più di 200 dipendenti, mi pare un 20% di quota di mercato in Italia nel vostro settore. Ecco, qual è il vostro settore specifico? La nostra intanto è un'azienda, una software house, di quelle aziende che creano i programmi, chiamiamoli così. Noi ci siamo specializzati inizialmente nella lettura ottica dei caratteri manoscritti e poi siamo passati alla cosiddetta archiviazione ottica o digitalizzazione delle informazioni e dei documenti in particolare. Abbiamo fatto grandissime installazioni in Italia ed anche all'estero. Teniamo una quota molto elevata, diciamo, siamo l'azienda più grossa in questo settore, quella che ha realizzato i progetti più rilevanti. E diciamo che poi l'azienda si è spostata in un altro settore, che è quello soprattutto quello dell'organizzazione aziendale, ovvero gestire i processi aziendali aiutandosi con i programmi software. Sia l'azienda privata, sia la pubblica amministrazione, in questo campo c'è molto da fare. Sì, anche la pubblica amministrazione è abbastanza sensibile a queste cose, sono state fatte anche se meno di quello che è stato fatto nel privato, però c'è una forte sensibilità della pubblica amministrazione a vedere l'importanza della digitalizzazione come uno degli strumenti per dare efficienza al sistema paese. Ecco, io vorrei, poi parliamo ancora dell'azienda, ma parlare un attimo di Padova, perché Padova è una realtà che negli anni, negli ultimi decenni, ha visto nascere molte imprese in questo campo, nel campo dell'information technology, dell'automazione, del software. Come mai a Padova? Come mai in questo nord-est che viene descritto spesso come un luogo appunto di economia tradizionale di economia produttiva, di fanno tante belle cose, ma è anche un luogo dove si è proiettati verso queste nuove formule, queste nuove realtà anche imprenditoriali. Beh, da una parte c'è la tipica laboriosità dei Veneti. Io non avrei potuto fare questa azienda in un luogo diverso del Veneto, probabilmente non avrebbe avuto lo stesso successo. Io poi ho vissuto in diverse parti in Italia, ma per creare l'azienda sono venuto a Padova. C'è da dire che la provincia di Padova, giusto per dare qualche dato, ha oltre 1000 aziende di informatica, che è un complesso molto... E tra l'altro noi siamo la più grossa azienda di sviluppo software di Padova. Padova è una, oltre ad avere l'università, e quindi non dimentichiamo per esempio che l'inventore degli algoritmi di Google è un professore ancora adesso dell'Università di Padova e ha sempre avuto questa propensione, diciamo così, alla innovazione. Basta pensare al CERVED, quello che gestisce le camere di commercio. Che è nato a Padova. È nato a Padova e quindi... Ecco, in questo senso c'è, diciamo, una caratteristica genetica un po' dei padovani, che sono proiettati verso il futuro, che guardano in avanti, che sanno capire dove va un po' il mondo. Ma anche tanta laboriosità, direi, questa è una delle caratteristiche. A Padova si lavora davvero. Io ho anche altre aziende in altre parti d'Italia, ma a Padova si lavora davvero. Ecco, e si lavora, questo forse è importante sottolinearlo, poi ne parleremo anche nella seconda parte della nostra conversazione, non solo per fare profitto, ma anche in attività non profit. Lei è anche presidente di una fondazione, della fondazione Siav Academy. Cos'è questa realtà? Beh, io ho sempre pensato che ogni azienda è non soltanto un fatto economico, ma anche un qualche cosa che ha a che fare con il sociale. E questo impegno sociale è una qualche cosa che io personalmente ho sempre sentito come un impegno personale, ma credo che sia un indirizzo importante che tutte le aziende dovrebbero avere. Quello di pensare a se stesse non soltanto come creatrici di profitto o di innovazione, ma anche la responsabilità verso i dipendenti, verso tanti posti di lavoro, verso tante famiglie, che è quello che poi fa anche il tessuto dell'azienda. Se i dipendenti sentono che l'imprenditore ha una particolare, come dire, sensibilità in questo senso, sono molto più disposti a dare l'anima per la propria azienda. E quindi questo sia. Anche la stessa azienda trae beneficio dal fatto che sia una realtà, la realtà in cui si muove, che è una realtà dinamica, una realtà che cresce, una realtà che ha, appunto, che guarda anche dei valori di fondo, che non sono solo quelli strettamente economici. Beh, non soltanto nei confronti dei dipendenti, ma nei confronti del sociale. La fondazione è nata per diffondere una cultura di innovazione e normativa, diciamo così, ma anche e in particolare per digitalizzare tante opere d'arte antiche, libri soprattutto antichi, che vengono digitalizzati sia per consentirne la fruizione tramite il web, cosa che sarebbe altrimenti impossibile, perché spesso questi musei, queste biblioteche sono inaccessibili al vasto pubblico, ma anche per preservarli, per avere come dire, la possibilità di conservarli a tempo indefinito, anche consentendo una consultazione digitale non cartacea, che spesso in libri antichi molto delicati sarebbe molto difficile. Ecco, poi ci racconterà quali interventi avete fatto, però diciamo che su questa strada state proseguendo e l'Italia è ricca di cose da salvare. È ricchissima. Grazie mille ad Alfieri Voltan. Ci fermiamo qui un attimo perché mi dicono che ci sono le notizie sul traffico, ma restate con noi a tra pochi minuti. Alla compagna di viaggio, i suoi occhi, il più bel paesaggio, fan sembrare più corto il cammino, e magari sei l'unico a capirla, e la fai scendere senza seguirla, senza averle sfiorato la mano. Ancora con le parole e la voce di Fabrizio De André, con Le Passanti, un invito anche a riscoprire questo grande poeta che ha accompagnato molti di noi nella nostra giovinezza, che ha accompagnato alcuni anni fa e che continua, per fortuna, ancora ad insegnarci qualcosa. Riprendiamo il nostro incontro e ringraziamo anche per averci fatto riscoprire questa pagina di Fabrizio De André con Alfieri Voltan, presidente di Siav. Abbiamo detto nella prima parte, Siav è una società società, una mega società nel campo del software, una società che è nata e si è sviluppata, è nata 25 anni fa, è stata fondata dallo stesso Alfieri Voltana, si è sviluppata nel corso degli anni, adesso è diventata una delle principali aziende in questo ramo, ma non solo si svolge la sua attività nell'ambito appunto strettamente industriale, commerciale, ma anche, dicevamo alla conclusione della prima parte, nel campo del non profit con alcune realizzazioni. E mi diceva Alfieri Voltana, adesso lo invito a spiegarci più dettagliatamente questa digitalizzazione dei documenti rari e antichi. Ecco, ci fa qualche esempio. Ecco, abbiamo digitalizzato circa 1,5 milioni di pagine di manoscritti musicali del Conservatorio La Maiella di Napoli. Tra l'altro queste pagine sono disponibili a chi si voglia collegare al sito, quindi sono anche consultabili. Credo che sia l'archivio di manoscritti musicali più grande che esiste al mondo, digitalizzato. Questo per, come dire, preservare a lungo termine, anche consentire la consultazione di questi manoscritti. Devo dire, sono cose anche piuttosto emozionanti, perché vedere manoscritti originali di Mozart del 700, 600, 700. Di Mozart, di Beethoven e così via, fa un po' effetto. Quindi proprio quelli scritti originali dagli autori, non solo napoletani, ma anche da questi grandi autori appunto di musica, adesso quella critica, di musica classica. Anche se è poco noto, il Conservatorio La Maiella dispone di un archivio sterminato e incommensurabile, bellissimo, di manoscritti musicali. Ma abbiamo fatto anche tante altre cose. Per esempio, credo che sia il fondo di libri antichi, la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, 3 milioni di pagine di libri antichi, tra cui alcuni sui quali ha studiato anche lo stesso Leonardo da Vinci, quindi sono anche queste cose molto, molto... E queste restano però di queste istituzioni che nei loro siti internet mettono a disposizione del pubblico queste realtà. E quindi voglio parlare anche di Guglielmo Marconi. Sì, noi abbiamo sponsorizzato, queste sono state attività che abbiamo fatto a livello anche professionale, anche se il nostro impegno è sempre stato quello di farlo per, come dire, per dare un contributo d'azienda al sistema paese, ma abbiamo fatto anche molte sponsorizzazioni. Una di queste è stata la digitalizzazione per conto della biblioteca dell'Accademia dei Lincei. Quasi tutta, buona parte della documentazione di Guglielmo Marconi, circa mi pare 16.000 pagine di tutta l'attività di Guglielmo Marconi. Questo non è ancora disponibile perché è stato digitalizzato ma non ancora pubblicato, ma è una delle attività. Ma abbiamo digitalizzato opere anche di per esempio su Galilei, che tra l'altro è stato molti anni a Padova, moltissime cose. Ecco, da profano uno pensa, quando a mettere appunto in memoria dei documenti si fa come si fa una fotocopia, è veramente così o la cosa è più complicata? Beh, ci vogliono delle, siccome lo scopo è quello di preservare nel tempo, la digitalizzazione deve essere ad altissima risoluzione, con delle macchine speciali, con delle tecniche che non rovinino, quindi con bassissima emissione di luce, che non rovinino questi documenti che spesso alla luce possono essere danneggiati, e vengono archiviate in due formati, uno ad altissima risoluzione che ha lo scopo della preservazione e un formato più leggero che ha lo scopo poi di poterle poi consultare nel sito web, quindi per consentire un'operazione che ho chiamato di democrazia della cultura, perché consente l'accesso a delle opere che altrimenti al vasto pubblico sarebbero impossibili da fare, perché queste biblioteche spesso sono blindate, solo gli studiosi possono accedervi. Hanno un valore economico e quindi vanno preservati, anche la semplice consultazione potrebbe rovinarle, quindi una volta che vengono digitalizzati possono restare nel loro posto nelle biblioteche e quindi essere conservati. Ecco, tornerei all'azienda, un'azienda informatica. Com'è cambiato il mondo del software, il mondo dell'informatica da quando lei ha pensato di realizzare, di costituire questa azienda, da 25 anni fa? È cambiato il mondo, molti dicono, è veramente così? Beh, l'informatica ha un tasso di evoluzione velocissimo e quando si crea il software bisogna pensare sempre a qualcosa di estremamente innovativo, perché c'è il rischio che, siccome sviluppare software impiega tempo, che quando sei arrivato a finire quello che avevi pensato è già tutto vecchio e da buttare via. Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna sempre essere molto sensibili ai trend, alle innovazioni, alle cose nuove che possono apparire, e al giorno d'oggi cambiamenti ce ne sono stati. Basti pensare al telefonino che noi abbiamo, che oggi è diventato un vero e proprio computer portatile con il quale si può fare veramente di tutto e accedere ad informazioni in maniera strepitosa ai quattro angoli del mondo alla fine. Ecco, sono cambiate appunto le macchine, sono cambiati i computer, sono cambiati i telefonini, sono cambiati tutti questi elementi che noi utilizziamo, quello che chiamiamo l'hardware, però il software riesce a seguire la capacità di innovazione che hanno i produttori di macchine? Beh, è soprattutto il software che è cambiato, basta pensare ai social network, a Facebook, a Twitter e così via. Questi sono tutta una serie di algoritmi che riescono a rendere l'informazione veramente trasparente, persino preoccupante, perché ci sono poi veramente problemi da una parte di privacy, dall'altra di sicurezza all'eccesso dell'informazione, che con l'apertura, diciamo così, nel mondo web di tutte le informazioni costringono a ridefinire i parametri di creazione e di distribuzione dell'informazione, perché basta pensare a quando uno fa una ricerca sul web, certo. Che so, Google sa dove io sono, quindi per esempio se cerco una farmacia di turno e scrivo farmacia di turno, mi dà quelle attorno a casa e non quelle in giro per... E questo può essere molto comodo, ma può essere anche poi l'inizio di una serie di conoscenza che porta a rendere commerciali queste informazioni e magari poi a farle avere delle offerte di farmaci che magari a lei non servono. Però io vorrei toccare anche il punto dell'Italia. L'Italia in questo sistema, in questo settore, sembra un po' una cenerentola. Noi dipendiamo da quello che realizzano a livello di hardware gli altri paesi. A livello di software riusciamo invece a difenderci? Beh, noi molto immodestamente sì, siamo l'unica azienda italiana ad essere presente nel Magic Quadrant di Gartner, che è un'istituzione, un'azienda internazionale che fa il rating delle aziende insieme con altre 20 aziende americane, quindi siamo una delle poche europee, tre europee che sono presenti in questa cosa, quindi diciamo che anche noi riusciamo ad esprimere della tecnologia. Certo, è affidato soprattutto agli americani la gestione del software, però il software non conta soltanto lo strumento tecnologico, conta la testa, l'inventiva, la creatività. Ecco, gli italiani dovrebbero essere sotto questo profilo un po' più dotati di creatività, di capacità di inventiva, di capacità di trovare delle soluzioni nuove, dei problemi nuovi. Diciamo che pur avendo un sistema paese un pochetto disastrato, questo ce lo dobbiamo dire... Diciamo che l'Italia si riesce a difendersi abbastanza bene, proprio per queste caratteristiche e proprio perché, come dicevo, nei programmi conta molto anche la parte non solo di innovatività ma anche di intelligenza dell'ambiente, dei trend, in questo caso che il nostro settore è quello dell'organizzazione delle aziende che possono tramite queste soluzioni avere dei grandi benefici, soprattutto in efficienza. Ecco, sotto questo profilo anche la pubblica amministrazione può avere dei benefici, voi avete anche degli esempi concreti in cui avete creato delle nuove possibilità operative, delle possibilità operative più efficienti per la pubblica amministrazione? Assolutamente sì, l'esempio più importante, non vorrei, ci sono degli enti importanti, non vorrei fare citare. Qualcosa si può fare, sì. Sì, magari, ecco, per esempio Banca d'Italia è l'unica banca centrale europea ad essersi dotata di un sistema, che è quello che abbiamo fornito noi, che consente di fare quasi tutte le attività in maniera dematerializzata, ovvero senza la carta, tutto elettronico, tranne piccole parti, utilizzando la posta certificata, utilizzando una serie di processi automatizzati che guidano il modo di lavorare delle persone e consentono in ogni momento di avere la trasparenza sull'efficienza dei vari settori, perché i sistemi consentono di dire chi ha fatto cosa quando e ogni processo a che punto è, chi ha una carta, un documento in mano da completare, cosa sta facendo, dove è questa cosa qui. E quindi questo consente un grandissimo apporto di efficienza, pur essendo un ente pubblico, ma un ente pubblico molto ben organizzato. Sì, forse che ha una sua autonomia nell'ambito della propria amministrazione. Ci sono magari delle procedure, delle regole, delle consuetudini che rendono più difficile questa modernizzazione, questo passaggio ai sistemi elettronici rispetto ai sistemi cartacei. Il vecchio certificato sopravvive ancora in fondo. Beh, si stanno facendo dei grandi passi, non solo Banca d'Italia, che è un ente un po' particolare, ma certo, anche altri enti della burocrazia, diciamo così, che possono essere considerati più refrattari all'innovazione, si stanno invece cambiando, e questo credo che sia un segnale, come dire, di grande fiducia fiducia per il prossimo futuro. Ecco, ma siete in qualche modo coinvolti, siete stati coinvolti magari quando c'è da fare un processo legislativo, delle novità di carattere legislativo, sentono un po' il parere di chi opera in questo settore, i politici? Sì, certo, ci sono degli enti che sono preposti a questo, in particolare l'Agenzia per l'Italia Digitale, che prima si chiamava CNIPA e poi ha cambiato vari nomi, ma noi abbiamo sempre dato il nostro contributo, anche perché credo che l'importanza della nostra non sta tanto nell'avere del software quanto di sapere esprimere delle competenze, e noi abbiamo, credo, delle persone molto in gamba che sanno dare un grande contributo di idee e di orientamento alla pubblica amministrazione, che poi li recepisce e li trasporta in normative. Va detto che l'Italia ha, credo, il complesso di normative sulla digitalizzazione del pubblico, ma non solo del pubblico, anche del privato, più avanzata, è questo che c'è in Europa perlomeno, ma anche negli Stati Uniti. E questa è un po' una scoperta, ci rende un po' più ottimisti sulle possibilità di questo paese, che forse ha tanti problemi, però può dimostrare anche di avere altrettante soluzioni. Certo, credo che questo sia un settore nel quale la pubblica amministrazione ha fatto delle ottime cose, e questo è un motivo di speranza, diciamo così, in tutti i guai che poi... Un altro motivo di speranza ce lo può dare, come vede i giovani che magari entrano in azienda, spero che entrino dei giovani nella sua azienda, un'azienda che cresce e quindi ha delle opportunità anche di sviluppo. Io sono il più vecchio in azienda e io ho una grandissima fiducia nei giovani, e credo che i giovani, lo sta dimostrando anche il sistema politico, da Renzi a Salvini, c'è bisogno di un'iniezione di gioventù per cambiare un po' di cose. Ecco, poi al di là delle idee che ognuno può avere, però la gioventù è sempre un ossigeno che viene dato, una spinta a guardare in avanti, anche a lavorare per noi. Grazie ad Alfieri Voltan per essere stato con noi questa sera, grazie a voi. Presidente di SIAV di Padova, società di informatica, una società di software. E io ringrazio anche Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.